Ma la mattina? Il pomeriggio? E poi la sera? Ma cosa ascolti? Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Radio Wombat! Buonasera, buonasera a tutti e bentornati qua sulle frequenze di Radio Wombat e come ogni sabato sera qui in compagnia con voi Basement Records per farvi ascoltare un po' di vecchio vinile recuperato in giro nei vari luoghi X. Nei luoghi X. E com'è qui perché la te li marchi con la ciao, ciao a tutti. No, la domanda è: sono X perché li marchi con la X e poi c'è la cartina tipo, certo, tipo la come si dice, la caccia al tesoro. Certo, no, e poi c'è, c'è gli indizi. Certo. Perché il Dama fa la caccia al vinile, dovete sapere questa cosa. Lui mi fa la caccia al vinile, no? Come bambini alle feste gli fanno tutta la... gli indizi. No, guarda, trova, c'è. Se te guardi dietro la porta e apri la cassa panca. Poi troverai una scatola. Allora, a me non mi interessa se non ci sono dei dolcini, cioè se non trovo le caramelle non la faccio. Ma caramelle come quelle che Trenitalia ha promesso alle donne per la festa delle donne. Sì. Un bel gelé al limone. Che ne pensi? Mm. No, allora, io invece vorrei dire... L'hanno ritirata poi, quella meno cosa. Male, perché c'era veramente... Poi gelé al limone, ma che caramella... Vabbè. Soddisfazioni, roba poco seria per me. Soddisfazioni, gelé al limone, proprio. Capito? No, dice, vale la pena essere una donna, sopportare tutto, perché così poi ti danno il gelé al limone. Ti danno mezzo chilo di cioccolata fondente. Già quello se ne potrebbe parlare. No, un gelé al limone per la linea. Madonna, io la linea non so cosa, l'ho abbandonata ormai anni fa, non so dove, tra un pacco di M&M's e un uovo di Pasqua, tristemente abbandonata. Ma Allora, procediamo con oggi con la come nostra procede, puntata. Diciamo, non ricordiamo niente. No, siamo... vuoi ricordare? Dopo, dai, dai, ricordiamo dopo. T'ho visto partire così, in pump. Sì, perché se parto, partiamo bene, se no, ma così mi allora, perdo. Allora, come si dice a Firenze, mi cheto. No, guardi, non è che la volevo chetare, volevo solo dire, così annunciare un po' che oggi nelle nostre recupere di vinile, sempre dalla premiata ditta del babbo, dalla sua ormai direi finita collezione, perché veramente mi sto stupendo di quanta roba ancora esce fuori. Ecco in cosa ha speso tutti i soldi, adesso non ha più. Ma come babbo. Minimo li sta ancora comprando e non ti ha detto probabilmente niente. No, quelli che compra ora me li nasconde probabilmente. E non credo che ora ci sia più la, secondo lui ci sia più niente che vale la pena comprare. Ormai che compra i dischi punk ai concerti così che trova certo. Il giro, perché lui è comunque un po' uno snob, non è che compra roba così, ecco. Può comprare quelli vecchi. Sì, però quelli vecchi ce l'ha, di quelli nuovi non gli piace che nulla. Che non ce l'ha. No, vabbè, per rimpinguare la collezione. Sì, ma ha finito tutti i soldi, capito? Con i dischi vecchi, non c'ha più una lira. E questo adesso siamo in queste condizioni, perché ha speso tutto in dischi. Bene, babbo, hai fatto bene, secondo me comunque. Finiremo sotto un ponte, ma ci copriremo con le copertine dei suoi dischi. E da cui che sono appunto, notoriamente termiche, tra l'altro. Certo, ovviamente, pigliano poco l'umido. E oggi abbiamo tutti artisti, ho fatto così una scelta, una selecta di tutti artisti solisti che sono stati anche in gruppi, ovviamente, magari sono diventati famosi col gruppo d'appartenenza, però poi hanno avuto una discreta carriera solista. Qualcuno era solista già dall'inizio. Discretoccia. Ho visto qualcosa importante. Qualcuno invece partiva già solista e solista è rimasto. Solo qualcuno proprio è rimasto proprio solo. Comunque partiamo dal meno sfigato, perché direi che è uno dei meno sfigati questo. No, come? Dici così? Non si parte dal meno sfigato. Sì, certo. Lui sì. Almeno di tutti quelli di oggi è il meno sfigato, quello più di successo. Sì, va bene. Per le masse è quello più famoso. No. Sì, quello di sicuro. Dai, ora parlo Pungiglione. Pungiglione perché Mister Sesso Tanto. Lo sapevo, ora volevo vedere quando lo diceva, ora lo dice, ora l'ha detto. Mi sembrava ci ha messo anche un po'. Pensavo, vabbè. Comunque Mister Sesso Tanto fa bene. Mister Sting, che come diceva un mio amico, non posso non citare, gli Rup che stava nelle colline di Pontassieve, da quando c'era Sting non trovava più la frutta e la verdura biologica, perché c'aveva l'idea che il Sting se la comprasse tutta, era così una teoria complottista, però secondo me c'aveva un po' ragione il vecchio Bencio. Secondo lui si comprava tutto lui, perché stava lì dietro, confinava con la villa sua, e lui diceva a me Sting mi ruba tutta la frutta e la verdura biologica, non si trova più a Pontassieve. E io lo vorrei salutare, non mi ascolterà mai, però dopo 20 anni era un mio amicone del liceo e sosteneva che Sting gli rubasse la frutta biologica e io continuo a sostenere che secondo me era vero, proprio da colonialista inglese qual è Sting. Allora, questo album di Sting che abbiamo scelto è il secondo solista, se non sbaglio, giusto? Giusto. È il suo secondo album solista. Dopo che aveva dato le dimissioni dai poliziotti. Esatto, aveva detto basta con i poliziotti. Aveva appeso il distintivo e la pistola al chiodo. Esatto, e aveva prodotto un paio di album, di cui questo è il secondo, che si intitola esattamente Nothing Like the Sun ed è un doppio addirittura, e contiene moltissimi singoli, cioè moltissimi pezzi che poi sono diventati famosi come singoli e per cui lui è rimasto insomma famoso oltretutto. E vabbè, noi ne sentiamo uno, però insomma mica uno poi così a caso, uno dei più insomma di quelli che poi è rimasto più famoso ai più, però insomma ce n'è tanti altri. Ma svegliamo il retroscena, perché abbiamo scelto sì, questo pezzo? È vero. Allora no, due cose c'è da dire su questo album. Non che teniamo vestiti da queste cose nascoste ai nostri ascoltatori. Era un bel figaccione, tra l'altro qui si vede subito in copertina, foto insomma così sbottonato, ecco insomma se la cavava ancora il vecchio Sting. A Farigano e gli riusciva pure. Questo disco noi abbiamo scelto in realtà perché abbiamo trovato all'interno della della buccia, quella di carta, quella, no? Proprio quando bello la buccia. È la buccia. La buccia di... Ci sono le traduzioni in italiano delle canzoni. Che non sai, capito, sembra perché di, sembra di spellare un'arancia, sì, allora, dalla buccia. La buccia, e ci sono le traduzioni in italiano. Capito? Delle canzoni tradotte in italiano. Stupendo. In inglese e a New York. Esatto. E noi abbiamo scelto, perché in italiano era bellissimo, un inglese a New York. Sono un alieno. Sono un alieno. Sono un piccolo alieno. E beh, è anche un po' biografica per il Dama questa canzone. Che lui è un po' un alieno. E quindi sono un alieno. Sono un alieno legale, perché anche questo. Sono un inglese a New York. Molto bene. Quindi noi legale abbiamo scelto, perché c'aveva la carta verde. Lo dice, sono un alieno legale. Quindi in questi tempi se di... Se no lo rimandavano in Messico, altro che... altro mandavano, lui non lo rifaceva ripassare neanche dal via. Comunque, nota del traduttore, Sting gioca sul doppio significato del termine alien nella lingua inglese, oltre ad alieno, infatti, esso può essere anche tradotto come straniero. A rafforzare le immagini si noti che la parola alien, nel senso di straniero, viene apposta con un timbro di passaporto al momento dell'ingresso nel territorio statunitense. Veniva, perché ormai ti vediamo le impronte e via. A meno come hanno fatto così, come mai? Vabbè, comunque... e comunque... Ma hai visto se l'hanno fatta a te, solo a te, no, basta? No, l'hanno fatta a tutti, Ciccio, so cosa vuoi insinuare adesso, però... L'hanno fatto a tutti, lo fanno a tutti. E allora già che mi hanno fatto entrare, è proprio strano. Infatti ci ho provato un paio di volte perché non mi volevano far entrare la prima. Comunque, noi abbiamo scelto questo pezzo. Sei atterrata a Staten Island? No, carino, sono atterrata a Long Island perché sono una signora a Staten Island. Sì. Ice-T? Sì. Si chiama così. No, vabbè, guarda, non mi fa di... Oddio, oggi c'ho il nervoso, guarda, fammi finire. Allora, un inglese a New York, se non mi fa perdere il filo, il signorino qui. Abbiamo scelto questo pezzo un po' per il tema, perché ovviamente, no, in questo periodo di alieni, di migranti considerati alieni, di alieni considerati migranti, vorrei aprire la polemica, e quindi ho scelto questo, abbiamo scelto questo pezzo qui, e poi perché la traduzione italiano è veramente bellina, fa veramente buffo, poi me ne leggiamo qualche pezzettino, si fa ridere, e poi perché va bene, è uno dei pezzi più belli effettivamente, almeno a me piace. E quindi niente, il titolo dell'album, però, siccome Sting è dentro di voglia Police, voglia far tamarro, ma in realtà è sempre un fighetto inglese, Nothing Like the Sun è in realtà una citazione di un sonetto di Shakespeare, il 130, non vorrei sbagliare, e si esprime poi in un pezzo che si chiama Sister Moon, un pezzo di questo album che magari poi sentiremo un'altra volta, ed è una citazione appunto del sonetto di Shakespeare. Bardo. Molto molto bene, quindi sentiamocelo questo alieno a New York, e poi così nella versione italiana però, sì, cantata dal Dama. Siete pronti? Ce l'avete un gommone a portata di mano, per scappare, vero? Una scialuppa, una scala, quello che volete. Va bene, no, nella versione una di ciambella. Sting, volevo dire l'anno, se mi riesce, me l'ero scritto. Englishman in New York è un pezzo appunto contenuto in questo album ed è esattamente dell'87. Contenuto in Nothing Like the Sun, appunto. Quindi, insomma, comincia ad avere un'età. Vada pure, maestro. Vadi fantocci. Vadi e lei. Questo è Sting con Englishman in New York a Basement Records, Radio Wombat. Englishman in New York. See me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. Take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. more in combat, you should live in there. Takes more than a license for a gun. Confront your enemies, avoid them when you can. A gentleman will walk but never run. The manners make us manners, someone say. He's our hero of the day. Takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Be yourself, no matter what they say. Questo era Sting con Englishman in New York. E questo era Un inglese a New York. Come vi dicevamo, abbiamo trovato le traduzioni sulla copertina del disco. E c'è cioè, tradotte in italiano sono fantastiche. Perché dice, tipo, a un certo punto, se le buone maniere distinguono gli uomini, come è stato detto, allora quell'uomo è l'eroe del giorno. Solo un vero uomo può sopportare l'ignoranza con un sorriso. Sii te stesso, qualunque cosa dicano di te. Sono un alieno legale, sono un inglese a New York. La modestia e l'educazione portano alla fama. Potresti finire per essere l'unico. La gentilezza e la rettitudine sono rare in società. Nella notte una candela è più luminosa del sole. Non bastano le armi da combattimento per fare un uomo. Ci vuole più che una licenza per avere una pistola. Affronta i tuoi nemici, evitali se puoi. Un gentiluomo cammina, ma non scappa mai. E vabbè. Mamma mia, quanto stupendo. Sei British. Che bello. Bene, sì. Da dove sei uscito? Da Barry Lyndon, davvero. Magari, io davvero sono uscita da Barry Lyndon, cioè nel senso io davvero ci andrei in giro vestita. Va bene. Ma non per i vestiti. No, vabbè, per lo stile, ovviamente. Però questo era un po' appunto la traduzione in italiano di questo pezzo del vecchio Pungiglione che, insomma, se la cava sempre, ormai, insomma, anche lui c'ha un'età, però... andiamo avanti, passaggi andiamo avanti. Di fogli, andiamo avanti, passaggi di roba. Allora che fa? Le ricordiamo ora e vai, ricordali, prima, sennò poi ci si scorda, prima di essere ricordali. Menomati dalla severissima punizione per non aver ricordato i indirizzi. Vada lei. Benissimo, il sito è come sempre wombat.noblogs.org. La nostra frequenza in onde mediocri, in onde medie, in AM per la zona di Firenze, che tra l'altro è molto, non so se ci avete fatto caso, ma è molto migliorata, sì, anche sì, a livello di qualità meglio. Sonora. E grazie a tutti quelli che si sono sbattuti. Mamma mia, i nostri tecnici senza di loro saremmo perduti. Aiuto. E la frequenza è sempre 1359 1359 sul vostro autoradio per la modulazione di ampiezza per in AM. E poi ovviamente la nostra mail, che è sempre postawombat@insiberia.net, i nostri canali social, che sono sempre Twitter con twitter.com/radiowombatfi e Facebook con facebook.com/radio-wombat-firenze. Anche se non mettete i trattini, sapete che ci troverete comunque, che di Radio Wombat Firenze ci siamo noi e basta. Allora, sì, scusate qui, tossi. Proseguiamo con un altro artista solista, in questo caso proprio nasceva solista e poi però Formerà un'altra, ha una propria band, esatto, famosissimi, però, Wilco nasce solista ed è il vecchio Billy Bragg. Questo album è il secondo di questo artista, non troppo noto ai più, ora insomma a chi si intende un po' di musica ovviamente sì, però insomma magari proprio c'è anche chi può non conoscerlo, dici no vabbè, lei è un po' uno snob quindi non vale, perché pensa che tutti siamo bravi come lei, conosciamo tutti gli artisti, ma non tutti siamo bravi come lei, signor Dama, per cui così lo introduciamo un attimo, in particolare questo album che c'ha una copertina stupenda, tra l'altro la vedrete nella fotina che facciamo sempre, bellissima, per mettere veramente Talking with the Taxman about Poetry, Talking with the Taxman about Poetry, che è una citazione di Majakowski, quindi insomma già il titolo parte così, insomma un po' impegnativo. E lui era un musicista particolare. E quindi vi potete già immaginare su il soggetto in che, di cui in che stiamo zona siamo, in che zona siamo a parlare. Un grande veramente Billy Bragg. Un grande Billy Bragg, un autore di testi veramente, veramente profondi, politici, insomma, qualunque cosa voglia dire la parola. Politicissimi, cioè proprio uno dei figli spirituali di Woody Guthrie, tutto il folk di cui abbiamo parlato, esatto, a Tonight Live. Esatto, studiatelo, chi non lo sapeva. Infatti nella puntata avevo messo anche un pezzo di Billy Bragg e degli Wilco. Me lo ricordo perché io sono una sua fan, come lei sa. È l'unica persona che mi ascolta, vero, tra l'altro. C'è sempre quell'uno segnato lì. No, due quando mi riascolto io per sentire se i volumi sono andati tutto bene. Quando ci ascolta la mamma, vabbè, benvenuto nel club. No, la mamma no. Va bene. Piuttosto se forerebbe i timpani. No, vabbè, ora guardi, mi sembra un po' esagerato. Comunque, un artista particolare, leggevo che il riconoscimento più evidente ed inatteso l'ha ricevuto, pensate un po', dai Rancid, un gruppo che in realtà con lui non è che avesse ed abbia molto a che spartire, però l'anno di Rancid per esempio lo citano nella prima strofa di War's End, un brano contenuto nel loro album And Out Come the Wolves. E c'è una citazione, parlano di Billy Bragg. Avrei potuto immaginare tantissimi, ma i Rancid, vedi, però i Rancid avevano colto quell'anima in realtà punk che c'aveva Billy Bragg, in senso del punk non musicale, ma in senso della così del senso, no, dell'attitudine bravo, non mi veniva come bravo, ormai mi completa le frasi, siamo veramente ormai ti leggo nel pensiero, ormai siamo veramente Vivianello, ma addirittura altri, insomma, con Lars Fredriksen, con i Bastards, coverizza addirittura un pezzo di Billy Bragg, To Have and To Have Not, quindi insomma in realtà è buffo, è stato poi citato, ecco, da chi magari non spartiva con lui troppo musicalmente, ma spartiva questa attitudine alla rivolta, al pensiero ribelle. Ancora, appunto, che dire, qui appunto in questa recensione, insomma, è abbastanza interessante, leggevo che la sua opera migliore sia un classico disco di transizione, cioè raramente è accaduto che un disco di transizione sia anche il migliore poi di un artista, perché questo, appunto, questo disco qui, da cui vi facciamo ascoltare un pezzo, è considerato un po' un disco di transizione per questo artista, perché Talking with the Taxman about Poetry, pubblicato nell'86, fa da ponte un po' ideale tra la produzione di Billy Bragg, tra quella che era la sua produzione e quello che poi avverrà in seguito. Quindi è un po' un momento di passaggio per lui. In origine, appunto, come vi dicevo, Billy Bragg era un one man band, un nipote, diciamo, arrabbiato di Woody Guthrie, uno che appunto voleva suonare come i Clash, ma non aveva un chitarrista, un bassista, un batterista, quindi poverino, doveva fare tutto da solo. Se ne andava in giro con la sua chitarra elettrica e l'amplificatore in spalla, alla scoperta di un'Inghilterra e di un mondo migliore, che sperava migliore, anche se ironicamente una delle sue canzoni più famose è A New England. Affermava di non voler cambiare il mondo, ma solo di essere alla ricerca di un'altra ragazza, ironicamente, ovviamente, ma quello è quello che spinge sempre, perché ragazzi, questa è la verità. Tutta la produzione originaria è raccolta in un doppio LP intitolato Back to Basic, un disco appunto un po' intenso così, e Billy Bragg proseguirà la sua carriera Ma oltre che ascoltato, Billy Bragg va letto, perché appunto i testi, davvero lui più che con la chitarra come Guthrie, i fascisti li uccideva con la parola, cioè i suoi testi sono veramente così, veramente Woody schierati. Guthrie con la chitarra e lui con la parola. E lui con la parola, e giustamente. Di questo, appunto, di questo Billy Bragg molto impegnato, così molto, molto schierato, sono presenti in questo album alcuni esempi notevoli, su tutti appunto Ideology, che è il pezzo che andiamo ad ascoltare, ma anche There's Power in a Union andiamo ad ascoltare, abbiamo esatto. scelto, che è l'altro pezzo, e appunto anche il titolo stesso, che è un omaggio a Majakovskij, da un componimento di Majakovskij, che è appunto parlando di poesia con l'uomo delle tasse, con l'uomo delle tasse. Soprattutto appunto qui si approfondiscono appunto le tematiche politiche, e però ci sono anche dei pezzi un po' più così, uno un po' più briosi, un po' più ironici, come Greetings to the New Brunette, the Marriage, e anche Honey, I'm Big Boy Now, che è un po' cabarettistica come struttura del pezzo. Quindi tutti dei brani che appunto il pubblico non si aspettava da Billy Bragg, e che probabilmente vanno appunto in, così, a immettersi nella sua produzione, in quello che poi sarà. Quindi di Billy Bragg qualcuno scrisse: la sua musica è uno scudo eretto contro la grettezza umana e l'avidità dei potenti. Anche solo per questo Talking with the Taxman About Poetry dovrebbe essere ascoltato almeno una volta nella vita e mai dimenticato. Ecco, quindi intanto vi faremo sentire una canzone. Poi magari vi faremo sentire più avanti anche altre, sì, anche sì, da altri dischi di Bragg, quando appunto poi ebbe la band. Ma anche pure un'altra da questo si potrebbe fare. Un'altra da Bragg. Sì, sì, ma dopo. Intanto stia calmo, perché lui poi mette sempre il carro davanti ai buoi. Ma poi senti un altro pezzo. Intanto stia calmo e metta questo. Bene, che è dicevamo There's Union. There's a power in There's a power union. In il primo brano del secondo lato del vinile, e avendo qui davanti a me la copertina di questo vinile, con questa copertina direi esplicativa, infatti poi ve la faremo vedere nella consueta foto che correderà il podcast della puntata, ma appunto guardando il retrocopertina, intanto è un album del 1986, sì, scusate, e poi una foto che mi fa molto piacere, perché vedo Billy Bragg in mezzo alla neve che sta camminando davanti a un portone di un edificio storico con la sua custodia per chitarra, e soprattutto vedo a piè del vinile questa nota che... For copyright reason, this album is not available in South Africa. Sì, sì, perché infatti lui era uno ovviamente di quelli che non voleva l'apartheid. Cioè, in realtà, che ovviamente era contro l'apartheid, e quindi questo era uno di quegli album che il Sudafrica vietava di entrare, come quasi come tantissima musica. Con dei testi molto molto politici, la sua diffusione era vietata nel Sudafrica, sì, dell'apartheid. Esatto, quindi la sua diffusione era vietata, lui per primo era contro, quindi non ci sarebbe andato a suonare, come invece facevano diversi musicisti a cui non fregava un cavolo e ci andavano a suonare uguale. Perché li pigliavano. Probabilmente pagavano in diamanti invece. Da qui Queen, visto che si fa tanto. No, tanto invece i Queen ci andavano e come. Capito? Ecco, visto che si fa i film sui Queen, si dice quanto erano belli e quanto erano bravi. In realtà loro. E da qui, dal Sudafrica, potrebbe partire anche tutta la citazione di un bellissimo documentario, docufilm, Candyman. Candyman, non l'ho visto. No, come non l'ho visto? Mi manca. No, vabbè, manca. Allora aspetta, perché allora i microfoni spenti, faccio il pippone. Parliamone dopo il brano. Sì, no, ma parliamone un'altra volta, che andrebbe dopo. Fatto tutto una... No, ormai ha lanciato il sasso. Ma ci vorrebbe il vinile. Allora, no, volevo solo fare un collegamento di quest'artista che era un riassuntino. No, realtà, vabbè, bene, ti faccio il riassunto. Però intanto si fa sentire. Perché quando non studia, poi mi tocca fare i riassunti, capito? Penso di sapere tutto. Dai. Mi cade su. Vabbè. Metta il pezzo, per favore, maestro. E questo è Billy Bragg con There is a Power in a Union, dedicato a Majakovskij, qui a Basement Records, Tonight Alive. Anzi, Basement Records a Radio Wombat, Tonight Alive, come sempre, si alterna una settimana ciao. Sì, metti una settimana il pezzo, no. Vai, vai, buona! Sciocco. We must fight for in the cities and the farmlands, the trenches full of mud. Wars have always been the bosses' wiser. Just laws cannot defeat us. But who'll defend the workers who cannot organize? When the bosses send their lackeys out to cheat us. Money speaks for money, the devil for his own. Who comes to speak for the skin and the bone? What a comfort to the widow, a light to the child. Era Billy Bragg. Vabbè, con There is a Power in a Union, molto bella, devo dedicato fare a Majakovskij, dedicato il titolo del pezzo che cita Majakovskij, che è lunghissimo il componimento di Majakovskij, ovviamente. Ho sbagliato, errata corrige, scusate, perché ho detto una parola e posto un'altra, e quindi poverino, giustamente, il dama non capiva, perché in realtà volevo dire Sugarman, non Candyman, Sugarman di Sisto Rodriguez. E ti torna grande Sisto Rodriguez, okay, allora torna. No, non c'era verso, dai, tu non lo conoscessi. Vabbè, infatti mi stupivo, cioè mi si scomponeva veramente le regole del mondo, e perché appunto si parlava del Sudafrica, appunto lui è l'incontrario, lui invece era conosciutissimo in Sudafrica. Questa storia che mi hai raccontato nel fuori onda non la sapevo, perché infatti il disco suo era considerato un disco di ribellione, di rivolta, quindi era uno dei dischi proibiti che però aveva girato ispirato, capito, la contrapposizione perché al appunto regime. Mi dicevi era stato importato prima della chiusura, perché non ce lo pigliava, cioè era stato mandato là prima della chiusura del mercato, perché in America non aveva avuto successo, non l'avevano spinto abbastanza, era pazzesco, era veramente un disco incredibile. Lui era quindi non aveva tirato, cioè non ci aveva fatto molto zero soldi, mentre in realtà ce l'ha fatti in Sudafrica, e poi in realtà il disco ha continuato a girare anche in Europa, solo che la casa produzione non si è mai capito bene, però sa parecchio di truffa, anche nel documentario si capisce, questi fanno gli ignorri, questi della Sony mi sembra siano, vorrei dire, E però quindi diventato famosissimo in Sudafrica e poi in Europa, una multinazionale, e non gli mandavano i diritti, avrebbe fatto la stessa non cosa, gli mandavano i diritti a lui, capito? Lui era uno sciagurato, faceva il muratore a Detroit, aveva scritto uno degli album più belli della storia della musica, ma veramente, cioè, era proprio il Bob Dylan di colore. Lui, cioè, sarebbe diventato Bob Dylan se non fosse stato appunto un poraccio di colore di Detroit e non un ebreo ricco, e scusami, però questa andava detta. Va un ebreo bene. Ricco tipo, tipo sì. Il Lou Reed, no, tipo Bob Dylan, anche Lou Reed. Bob è bello, sì, buono. Sì. Per cui va bene, faremo una puntata su Sisto Rodriguez. Io non ce n'ho il vinile, ma ci si procura, perché veramente Sugarman e niente. Bene, poi è morto ora in realtà da poco, però è stato riportato così appunto alla fama da questo documentario, che è bellissimo, tra l'altro è veramente un bel documentario. Bene, quindi proseguiamo così la schiera così degli underdog, ma solo più che altro qui si arriva più che agli underdog, perché questo di certo non è uno sfigato, però è sempre stato un nerd, dai, è un po' su quello, è un super nerd, amato dai nerd e portabandiera dei nerd nel mondo, quello senza dubbio. Più nerd di lui non ce n'è, e li vogliamo bene proprio per quello. Come dicono io. Sempre meglio nerd che merd. sì, vabbè, quello di sicuro. E insomma, avercele di nerd così, perché ora si prosegue con Elvis Costello. Con Elvis Costello, niente po' di meno che. Esatto. Ci vuole e dire. Questo tra l'altro è Elvis Costello con la sua prima band. Delle origini, sì. Con gli Attractions, come si chiamavano. Ed erano appunto Elvis Costello, Steve Neve, Bruce Thomas, Pete Thomas, e accompagnati anche da una sezione di fiati, i TKO Horns, con Gene Patterson, Jeff Bilt, Paul Spear e Dave Blues. Esatto. Quindi anche quattro fiati ai fianchi. Scusami. Ai fianchi del buon Elvis Costello, che per una buona parte, per diverse decadi, ha fatto la storia, direi, della musica indipendente inglese. Beh sì, su Costello ci sarebbe veramente da fare una puntata solo su Costello, sui suoi vinili. Vabbè. Di Costello, perché ha una produzione sterminata Costello nella carriera, infinita, sta uno dei avuto, più prolifici, mille formazioni, ha avuto tantissime incarnazioni. Però queste un po' le origini, era veramente un giovinastro qui, perché questo disco nella copertina è proprio un pischellino, Elvis Costello and the Attraction, e questo disco Punch the Clock è del 83, quindi insomma veramente gli albori, e contiene tantissimi, insomma tanti comunque pezzi. Non tra i primi, perché se non mi sbaglio il primo disco di Elvis Costello è uscito proprio nel pieno anno del punk, se non mi sbaglio il primo, da il disco d'esordio credo sia del 77 di Costello, se non mi ricordo male. Sì, infatti questo dovrebbe essere il secondo di loro, con loro. Forse anche qualcosa di più. Comunque noi abbiamo scelto da questo album, abbiamo scelto un pezzo in particolare, l'ultima, perché traccia della prima facciata, perché in questo brano ospita alla tromba niente po' di meno che un'autentica leggenda del jazz come Chet Baker. Qui insomma già nella sua vecchiaia, tra l'altro c'è anche la foto della sua testa con il cappellaccio da cowboy nell'interno della copertina, e qui già insomma aveva i suoi anni il buon Chet, e questo, essendo un disco del 1983, è già un già un pezzo in là, non che se li portasse già un pezzo in là, bene, è sicuramente post vacanza forzata in Italia, perché e poi mi sa che stava già in Italia, perché lui rimase in Italia, ha vissuto in Maremma fino alla morte, sì, tantissimi sì, anni. Quindi, tantissimi insomma, anni, però non so se già ci viveva negli anni 60, se non mi ricordo male, stava dalle parti della Versilia. Fu addirittura arrestato in Italia, e non mi ricordo per quanto risiedette nelle patrie galere della sì, perché italiane. Poi c'era tutto il periodo in cui suonava nei jazz club con gli urli, insomma, vabbè, insomma, poi su Chet Baker, se no ci poi si... ovviamente come da buon jazzista era uno di quelli che gli piacevano le caramelle. Comunque, esatto, andiamo avanti. E su Chet Baker poi ci sarebbe però noi abbiamo scelto appunto questo pezzo, tra l'altro, se non mi ricordo male, una volta poi che uscì di galera in Italia andò addirittura a lavorare a una pompa di benzina, se non mi ricordo male. E stiamo parlando di Chet Baker, forse uno dei più grandi trombettisti bianchi della storia del jazz. Quando cantava, figurati, vabbè, io ho proprio dei problemi. Comunque, abbiamo scelto questo pezzo, quindi scritto da Costello, e con featuring appunto alla tromba Chet Baker. Quindi ve lo facciamo ascoltare, è parte di questo album, Elvis Costello and the Attraction, Punch the Clock, il titolo dell'album. E questo pezzo è Shipbuilding, chiaramente a Basement Records, Radio Wombat. For coat and shoes for the wise, and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. The boy said, Dad, they're going to take me to Tars. But I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result of this shipbuilding. With all the wealth in the world diving for dear life, and we could be diving. when we could be diving for pearls. When we could be diving for pearls. When we could be diving for pearls. Eccoci. Eccoci tornati qua in studio. E questo qua. Era Elvis Costello con Chet Baker. È una chicca, questa era una chicca. Negli Attractions. Questa era una super chicca. Bene, allora io direi che si conclude oggi questa puntata con un altro come artista. Diciamo, ma qui c'è da timbrare il cartellino. Che ti me lei mi da stanno vivendo, questo è schiavismo. Ma io sono qui, cioè non lo so, veramente ho dei diritti, ho una vita. Ora non granché, però insomma, fuori da questa Wombat Caverna c'ho una vita che ripeto non è che sia proprio il massimo, però insomma è proprio lei è un po' vita. Schiavista. A proposito di vita, lei prima mi stava ricordando sì. che stasera c'è una signora festa. Sì ragazzi, se non siete come poi dici no la vita c'è nulla a fare, no sabato sera anche a Firenze c'è una super banda perché c'è una serata, un super seratore Alex Emerson, quindi in questo momento mentre noi parliamo, ma fate voi finite ad ascoltare noi e andate alla festa, oppure ci ascoltate come quei pochi ci ascoltano in podcast. Allora, per chi ci sta ascoltando però lives, c'è una festa e che festa? Alex Emerson, giusto? Una serata tutta benefit Radio Wombat. Appunto che state facendo Ricky Premi e Cotillon banchini di Radio Wombat. Se ci state ascoltando in podcast e non siete andati e perché non vi siete informati con la consueta rassegna eventi settimanali, mi dispiace per Wombat, voi vi siete persi una mega festa come facevano le maestre una volta, bacchettate sulle dita sì e via così. Bene. Quindi una serata con il sound della Romola e con Benefit Radio Wombat e con tutti i DJ di Radio Wombat, li potrete vedere così, chiedere autografi, ecco, insomma. Potrete vedere le ghigne. Allora, a proposito di ghigne. Andrei visto avanti, che stiamo parlando di ghigne. Concluderei la nostra puntata con un altro artista che parte solista, ma che poi in realtà. Ma davvero si conclude? Io lo so che lei c'ha l'ansia da separazione, ma poi ti porta a cena, non ti preoccupare, non ti lascia da solo. Fatemi mangiare, eh. Allora, questo artista è uno appunto oggi della puntata dedicata agli artisti solisti che poi però hanno partecipato prima o dopo nella loro carriera con gruppi molto molto famosi o che comunque sono rimasti in questo caso prima in una band direi no in questo caso dopo perché all'inizio era sì mi sa no lei dice prima io dico prima durante no, dopo no non voglio l'età è un po' quella, quindi l'arteriosclerosi in realtà galoppa. C'ha anche ragione lei, perché lui ha fatto sia appunto parte di questo duo del Suicide, esatto. Una band veramente fondamentale, seminale direi. Esatto. Allora, diciamo che magari un giorno si potrebbe fare anche Suicide. Anticipiamo. Ma ora qualcosa si dice perché di Tonight Alive. Perché il 16 luglio di 2 anni fa moriva Alan Vega, cantante e artista appunto statunitense dotato di un talento visionario che assieme al suo complice Martin Rev diedero vita nel 70 ai leggendari Suicide, gruppo d'avanguardia che con la sua musica ha influenzato generazioni di grandi artisti. Alan Vega infatti ha così fatto un uso pionieristico della strumentazione elettronica minimalista, dei synth, assolutamente. Usi synth delle prime drum machine. Le prime esibizioni dei Suicide erano non semplici concerti ma vere e proprie manifestazioni e spesso finivano in violenza, quindi furono tra i primi a usare la frase punk music per esempio in un annuncio pubblicitario per un concerto del 70. Sebbene mai largamente diffusi, stiamo parlando del 70, tra il grande pubblico i Suicide sono stati riconosciuti come una delle band più influenti della loro era. Il loro album di debutto, Suicide, appunto del 77, è stato più volte definito come un punto di riferimento della musica elettronica, precursore del post-punk, synth-pop e industrial rock. Assolutamente sì, è stato una, quindi, sono insomma, stati una band fondamentale, esatto, veramente, e per hanno, certi hanno tipi di sonorità. Hanno veramente hanno influenzato tantissimo. Ma veramente, Jesus and Mary Chain, Bauhaus, Joy Division, New Order, Radiohead, Nine Inch Nails, Pet Shop Boys, Tears for Fears, che dire, Massive Attack, Metal Brothers, Daft Punk, insomma, chiunque davvero, abbia Bono Vox, Bruce synth. Springsteen, sono solo alcuni dei tantissimi artisti che hanno citato Alan Vega e i suoi Suicide come fonte di ispirazione. Addirittura Bruce Springsteen ha sempre detto che la sua State Trooper, presente nell'album Nebraska, è stata influenzata da Frankie Teardrop dei Suicide, quindi insomma, accidenti, e spesso chiuso i concerti del suo Devils and Dust Tour del 2005 con una versione rivisitata del Dream Baby Dream, che poi incluso addirittura appunto da quel pezzo si ispirarono anche i famosi Teardrop Explodes di Julian Cope, che presero il nome appunto sempre da quella composizione dei Suicide. Però sì, una parentesi così, esatto. Ma com'è veramente, ma quante ne sa lei. E diciamo che tutta la vita, tutta la produzione di Alan Vega, sia nei Suicide che poi anche come solista, è stata appunto dedicata alla visione appunto artistica, la sua aderenza inflessibile alle esigenze della sua arte. Ha fatto appunto solo e sempre quello che voleva ed è vissuto per creare. Dopo decenni il mondo ha anche, si è messo al passo con lui, ma lui davvero era stato un precursore, ecco quello che è veramente stato Alan Vega, fondamentalmente un precursore. E così insomma, tra i suoi brani appunto più noti, così hanno poi influenzato, come dicevamo, tantissimi altri artisti, anche che uno non si aspetta, appunto come Bruce Springsteen. Noi qui oggi però abbiamo, e non mi stupisce che tra i vinili del babbo ci sia Alan Vega, perché ovviamente, amando tutta la musica che abbiamo citato, non poteva non avere un pezzo di un disco di Alan Vega, che però è un disco in questo caso non con i Suicide, ma un disco solista, diciamo, chiamiamolo solista, poi in realtà accompagnato da altri musicisti, e che è l'anno, ora non me lo ricordo, ma ce l'ho, è un disco degli anni 80 se non mi sbaglio, si chiama proprio Alan Vega Album, quindi prende proprio, cioè, 80, c'ha il suo nome. 80 spaccato, se non... Esatto, c'è lui in copertina ed è dell'80 spaccato, proprio Alan Vega si chiama così l'album. E niente, noi abbiamo scelto da questo album un pezzo, giusto? Sì, sì, l'ho scelto io. L'ha scelto lui, quindi a lui la responsabilità. E parte la musica così, a caso. E bene, ce lo andiamo a ascoltare, un album prodotto a New York nell'80. 100% New York, direi, anzi, proprio prodotto, scritto e pensato. Un album, più uno degli album più newyorkesi. Sì, sì. Che si possa ascoltare. E visto che mi hanno lasciato carta libera per voi stasera di Alan Vega, del suo album omonimo, ho scelto Fireball, palle di fuoco. Chiaro. Ovviamente a Basement Records, Radio Wombat. Taking a stand, burned out maniacs on the telephone, screaming about a working to the bone. Only roller, roller, singing. Hey, Baba Riva. Burned out maniacs are holding dynamite. hanging from the cross, screaming about a working for the boss. Questo, sì, era, questo era il grandissimo Alan Vega. Alan Vega, che ci ha lasciato un paio d'anni fa, ma ci ha lasciato anche tutta la sua musica, che magari sicuramente torneremo a riascoltare. Ora cercherò qualche vinile di Suicide, di sicuro c'è nella collezione paterna. Bene, sarebbe la fine della puntata, ma siccome al signorino qui non gli basta mai, non si accontenta mai, sono riuscito a strappare un altro pezzo alla tiranna. La tiranna, mi piace, la tiranna è bella. Non c'ho, potevamo lasciarvi così. Non la vedete, ma io ce l'ho. Poi sapete che c'è questo, ormai ve l'ho già raccontato tante volte, sapete che qui in Wombat Regia c'è sempre questo vinile che ci accompagna, che ci guida dall'alto fin dalla prima puntata di Basement Records. E questo album, essendo un album veramente leggendario, una cosa che è un po' abuso nel dire, però essendo Kind of Blue di Miles Davis, che ci protegge sempre dall'alto qui nella tana del Wombat, sono riuscito a convincere la Virgi a farmi mettere. Cioè, se sono tiranna io te li farei vedere i tiranni veri, perché se sono tiranna io, se non l'hai visto quelli veri. Da questo album veramente epocale, direi, della storia del jazz, sì sicuramente, ma direi della musica in genere. Ho una certa predilezione per Miles Davis, cioè proprio discepolo strisciante in terra di questo grandissimo genio della musica. E questo era veramente un quintetto, anzi un sestetto leggendario. Qui erano in sei, lo ricordo, in questo album. Pensate, insomma, alla line-up con Miles Davis alla tromba, Julian Cannonball Adderley al sax alto, altra autentica leggenda, e a proposito di leggende, al sax tenore ovviamente c'era John Coltrane nella sua prima fase di carriera, dove ancora prendeva delle sonore lavate di capo dal signor Miles. Poi abbiamo Bill Evans al piano, altra autentica leggenda del jazz, Paul Chambers al basso e James Cobb alla batteria. E in questo caso ci andremo a sentire Freddy Freeloader da questo album Kind of Blue, che tra parentesi è l'unico brano dove non c'è il grandissimo Bill Evans al piano, ma in questa Freddy Freeloader è sostituito assolutamente degnamente, perché, come non mi stancherò mai di ripetere, cioè Miles, come tutti i grandissimi geni, non accettava niente che fosse al di sotto della perfezione assoluta, quindi se registravi o suonavi con lui sapevi che non potevi sgarrare neanche di una virgola. Ed in questo caso, in questa Freddy Freeloader, al posto di Billy Vance al piano c'è Wynn Kelly alle tastiere, tastiera nel senso del pianoforte. E allora sentiamoci quest'ultimo pezzo che sono riuscito a strappare alla direzione, e questa è Miles Davis da Kind of Blue con la sua Freddy Freeloader. Thank you. questo era Miles Davis con la sua Freddy Freeloader. E questo era il pezzo extra che ha vinto. Abbassiamo se no il riverbero della cassa. Ma io mi fido di lei, scusi, eh. Va bene, allora, insomma, sarò anche una tiranna, però il pezzo in più l'hai messo, sì, si può no, andare a mangiare. Mi posso ritenere contento. Sì, si potrebbe bene, anche andare a mangiare sì, andiamo a mangiare prima di andare alla festa, perché è chiaro, vabbè, quello era implicito. Mi andare alla festa a stomaco vuoto. No, mi vuoi vedere morto, no, cioè, no, ci, non so. Ci mancherebbe, già ci mette del suo, guardi, per rovinarsi, non c'ha bisogno di me. Va bene, già, insomma, allora mi impegna abbastanza, se poi ci mette anche l'handicap. No, infatti, stomaco pieno si va alla festa, non si beve mai stomaco vuoto. Ormai il nostro piccolo Wombat lo sanno. Va bene, quindi non bevete mai stomaco vuoto, non bevete se dovete guidare, fate guidare me, come in questo caso. No, guida poco e devi bere. Esatto, oppure guida qualcun altro, cioè io che non bevo mai. Guida poco e devi bere. Va bene, allora... Ci sentiamo la prossima volta e la prossima puntata probabilmente con un ospite, ancora non siamo sicuri, ma ricche sorprese. Sorprese cotillon. Bene, allora speriamo che vi sia piaciuta anche questa puntata e ci risentiamo. Buon sabato sera ai nostri piccoli Wombat, piccoli e grandi Wombat. Piccoli e grandi Wombat e l'appuntamento alla prossima trasmissione di Radio Wombat, ovvero Ancora te, Vinny. Ancora io, domani, cioè veramente un incubo, veramente. Ancora te, con la fuga del gatto. Insieme a Bloody Mary, insieme a Bloody la fuga Mary. Del gatto. Sì, dovremmo essere domani. Ci anticipa qualcosa o come sempre? No. Scoprite. Dovete... Ma nemmeno così un po' di teasing. Perché non lo so ancora, non mi insista, non lo so. Stanotte alla festa prepara la puntata. Cioè, chiaro, alle 5 di mattina prepara la puntata. Infatti si sente come vengono poi. Va bene, quindi a domani con la fuga del gatto e chi ci ascolta in podcast e nelle repliche con Basement Record. Ciao ciao a tutti, buon sabato sera. Ciao.